Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap. Ci siamo ragazzi. There goes gravity, oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he. Non è stata una bella idea la tua. Fallo questa volta è ancora, anzi, di Balotelli. Il cartellino giallo per Balotelli, il secondo del mondo se l'ascolta. Commette fallo Marchisio e prende anche il giallo. No, rosso! Un morso ancora? Ancora un morso? La morso ancora forse? La morso di nuovo? Oh. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? Le botte sul campo sono queste che Franco Piantini, autore di questo programma, ha riepilogato con Gianmarco Serronati in regia. E poi ce ne sono state delle altre però, perché adesso che sono crollati i muri dello spogliatoio e anche quelli del ritiro azzurro, abbiamo davvero un'idea precisa su tutto quello che è successo alla nostra nazionale in Brasile. Nostra nazionale che è tornata, è atterrata oggi in Italia, vuoi a Milano, vuoi a Roma. Giocatori in silenzio, nessuno ha parlato se non un paio di parole di Buffon attraverso una grata, attraverso una rete. Balotelli preferisco non parlarne, ha detto Buffon. Balotelli e Prandelli non sono usciti con il gruppo, ma poi ci faremo raccontare tutto su un paio di furgoncini che li hanno aspettati sotto l'aereo, non si sa se per motivi di sicurezza, scelte personali eccetera, però non è tanto questo il punto. Ora che sono crollati i muri dello spogliatoio e quelli del ritiro azzurro, come dicevo, abbiamo un'idea più chiara su tutto. Gruppo in totale autogestione, il clan dei senatori, cioè tutti gli juventini più De Rossi da una parte, i reietti o forse i grandi imputati o forse i grandi alibi o forse i grandi capri espiatori, Cassano, Balotelli dall'altro, qualche scontento ed è emerso, anche il giovane Verratti ha avuto le sue da dire. Una nazionale che così spaccata non è stata mai, nemmeno nei giorni peggiori. Io continuo a pensare, a differenza di molti di voi, io credo, 800240024, così ci chiariamo subito, io continuo a pensare che non siano state belle le parole di Buffon dopo la partita. Mi è sembrato un grande scarico di responsabilità, Buffon e poi anche De Rossi, quindi da parte dei senatori. Non dimentichiamo che anche loro sono reduci, nonostante dicano noi abbiamo fatto tutto, dato tutto e messo sempre in campo tutto quanto avevamo. Anche loro reduci da una bella coppia di eliminazioni al primo turno dei mondiali. Eppure mi è sembrato una sorta di chiamarsi fuori. La colpa è di quello là. 800240024, di quello là che ha riempito un album di figurine soltanto con la sua faccia, la colpa è di quello là. Intanto Pirlo, che aveva dato grande anticipo addio ad ogni tipo di nazionale e che aveva fatto il suo il suo intervento di chiusura, il suo pippotto se preferite, dopo la partita in quello spogliatoio in cui volava qualunque cosa. Ebbene, sull'aereo di ritorno magari ci ha ripensato. Albertini invita Pirlo a ripensare al ritiro, lui risponde: se serve sono disponibile. 2 più 2 uguale a 4, no, Allegri non allenerà la nazionale, mi suggerisce Franco Piantanida, e può essere corretto, ma intanto la colpa è di quello là, traffico. Non so niente. Tutti convocati. Ai ai ai ai, eliminati. Cavani, Suarez, Muslera e Godin, e a casa torniamo Italy. Notti tragiche. Ci hanno fatto un gol sotto il cielo di un'estate brasiliana. Anche l'arbitro ci ha messo nei guai. Finale. E dopo il morso ci ha purgato. Sì, stiamo con Fiorello, dai, ma stiamo con Fiorello sempre, ci facciamo anche due risate, non è che stiamo qui a fare dei processi a nessuno, il mio pensiero l'ho detto, non lo cambio, 800240024, già leggo già diversi messaggi di vario segno, c'è chi scrive via tutti i senatori, chi invece scrive Sirigu non prendeva quel gol, e vabbè caro mio da Venezia. Gigi da Venezia pure, ci voleva un allenatore con le palle, altro che senatori o figurine. Franco da Milano, si va in campo in 11, questo lo hanno dimenticato. Buffon non c'entra nulla con il Sudafrica, c'era cioè Marchetti, vabbè, ma faceva parte di quel gruppo, era lì anche lui, cosa vuol dire non c'entra con il Sudafrica? Questo gruppo di senatori è reduce da una coppia di eliminazioni al primo turno ai mondiali, certamente dopo aver vinto quello che hanno vinto nel 2006, e tra i grandi accusatori ovviamente c'è un altro grillo parlante di questa nazionale storico, cioè Daniele De Rossi, ossia colui che, tanto per non dimenticare nulla, a proposito di comportamenti, Italia-Stati Uniti, seconda partita del mondiale americano, gomitata in faccia a un giocatore statunitense, 4 giornate di squalifica e squadra in quel momento nei guai. Ne siamo usciti ed è finita in gloria, festa per tutti, ma giusto per non dimenticare. Certo, è colpa anche del, non è il mio numero 45, è colpa anche di Balotelli, gran parte della colpa di Balotelli, ha steccato, ma anche perché è condannato a non poter essere mai un giocatore normale, e ho sempre più dubbi sul fatto che possa diventare anche un fuoriclasse. Quello che dico è che quello che dico è che è chiaro che le grandi colpe, secondo me, sono di chi si è già dimesso, e cioè di Cesare Prandelli. Anche qui abbiamo delle dichiarazioni di Albertini sul nuovo commissario tecnico. Albertini, che ho l'impressione sarà il più plausibile candidato per... anche se dice non sono attaccato alle poltrone, vabbè, ma questo che c'entra, lo dicono tutti in Italia, non solo. Albertini, con l'impressione possa diventare il più credibile candidato alla presidenza della Federcalcio. Sul nuovo CT dice che i tempi saranno stretti, che lunedì se ne parlerà in consiglio, non ci sono i tempi perché a sceglierlo sia il nuovo presidente, gli stessi che lo eleggeranno dovranno prendersi prima la responsabilità della scelta per l'Italia. Questo ha detto Demetrio Albertini, che ha parlato anche di quello là, cioè quello di cui sopra. Balotelli dovrà dimostrare di meritare l'azzurro, oppure ci saranno degli altri, ha detto Albertini. Non è vero che ha più colpe degli altri, ma il talento è una missione, va messo al servizio della squadra. Deciderà il nuovo CT, la gestione del gruppo prescinde dai singoli. Vabbè, cominciamo a parlare, eh? Voglio cominciare a parlare con voi subito. 800240024, Osvaldo da Mantova, buongiorno. Osvaldo da Mantova, dove è finito? Osvaldo da Mantova, Vabbè, aspettiamo Osvaldo da Mantova, mentre per quanto riguarda sugli altri fronti e sugli altri campi, è un mondiale da nervi scoperti. Tra poco vi racconteremo, proveremo a farlo, ciò che per filo e per segno, ma ormai lo saprete, ciò che è successo nell'intervallo di Italia-Uruguay, con Bonucci che urla a Balotelli: imbecille, esci di qui e stai zitto, e Balotelli che bofonchia, che Prandelli che dice no, se vai avanti così ti sostituisco tra 10 minuti, e invece viene fatto fuori da tutti gli altri. De Rossi dice ti spacco la faccia, tutte queste cose nell'intervallo. Quello che è successo dopo la partita grosso modo lo conosciamo, il centravanti che va via con le cuffie in testa viene richiamato per l'addio di Pirlo, Cassano che sbuffa, viene ripreso perché si sta aspettando Pirlo dopo l'antidoping, e viene ripreso da Buffoni, insomma, gazzarra più totale. Ma d'altra parte, dicevo prima, è un mondiale un po' a nervi scoperti. Notizia di oggi: Muntari e Boateng si sono presi a cazzottoni durante l'allenamento e sono stati cacciati dal ritiro del Ghana. Quindi saranno fuori. Muntari sarebbe stato escluso per squalifica comunque. Questa sera però entrambi saranno fuori in Ghana-Portogallo. Intanto si sta aspettando la decisione su Suarez. Luis Suarez, indifendibile eppure difeso dall'intero gruppo del Portogallo oltre ogni ragionevole limite, visto quello che ha fatto. Allora, tra le cronache di oggi, di ciò che è successo nel ventre della Duna, cioè lo stadio in cui abbiamo perso il mondiale, tra le cronache di oggi la più dettagliata è quella del secolo XIX, firma Giampiero Timossi. Ciao Giampiero, grazie. Ciao, buongiorno, grazie a voi. Attenzione, io sto guidando, non voglio schiantarmi. Eccomi qua, ok. Eccoli. Ci sei? ho l'auricolare, sì. Eccomi qua, sì, ci sono. Senti, ho letto con grande attenzione questa cronaca, dicevo prima, uno spogliatoio trasformato in un salon, ma lo specchio fedele di una spedizione tutta sbagliata. Sono d'accordo con te, una spedizione sbagliata, nata con convocazioni sbagliate, un gruppo che non aveva nessuna unità, che aveva manifestato subito delle perplessità su alcune scelte del commissario tecnico, un gruppo dove un giocatore con grandi qualità come Cassano comunque non era davvero un qualcosa, un corpo estraneo, non aveva partecipato di fatto a tutto il cammino per le qualificazioni, quindi non aveva senso farlo partecipare anche a questi mondiali. Questa non era soltanto una perplessità manifestata da una parte della critica, ma senz'altro espressa da alcuni giocatori importanti, sicuramente con il garbo che bisogna avere in queste situazioni, ma giocatori come Buffon o come altri o come Pirlo avevano insomma fatto capire al commissario tecnico che un gruppo doveva essere formato da persone che avevano partecipato, che avevano costruito qualcosa insieme. Uh-huh. E così non è stato, e già l'arrivo probabilmente in Brasile, in questo strano ritiro aperto ma completamente isolato dal resto del mondo, sì. le prime avvisaglie di qualcosa che non funzionava si erano viste, ci sono stati i primi scontri smentiti in maniera un po' goffa sì. dalla federazione, dopo la vittoria contro l'Inghilterra, perché un giocatore come Cassano non aveva gradito probabilmente, anzi sicuramente il fatto di non aver partecipato a questa partita. Buffon, Pirlo, De Rossi, quelli che hanno vinto in nazionale e che conoscono che sanno come si costruiscono le vittorie, avevano subito spiegato ai più giovani, a quelli che insomma non avevano intenzione di mettersi in riga, come dovevano fare. Sì. Non è bastato dopo la sconfitta contro la Costa Rica, nuovi problemi, e poi la rissa finale, il grande sì. Come tu lo definivi, insomma, il saloon dello stadio. Sì. Giampiero, resta la sensazione che comunque Prandelli abbia totalmente perso il controllo del gruppo, ma questo già da un po', ho la sensazione che questo sia avvenuto già da diverso tempo, già da un anno. I senatori non volevano Cassano, lui l'aveva chiamato in qualche modo, imposto, e ha gestito questa spedizione con spirito, allora, più Prandelli, o meno oratoriale. Prandelli è un buon allenatore, è una persona assolutamente per bene, credo che l'abbiate anche dimostrato in queste rassegnando subito le dimissioni dopo, sì, aver fallito, però credo che abbia completamente sbagliato approccio. Lui è abituato a scegliere, a lavorare e a portare avanti un progetto con persone che hanno sale in zucca, che non hanno mani di protagonismo, che credono nel gruppo, e sì, queste non sono caratteristiche che appartengono a giocatori come Mario Balotelli, sì, che anche oggi, che anche in questo viaggio di ritorno da Milano, da Rio a Milano, non ha fatto nulla per far parte di questo gruppo. È arrivato da è totalmente spaccato. E poi, insomma, cosa gravissima, secondo me, che insomma, come tutti noi ormai viviamo e vediamo calcio da un po' di anni, sbagliatissimo andare a vedere i compagni di squadra che lasciano l'aeroporto su un normale pullman, sì, e lui via con la fidanzata, con la bella Fanny, su un'auto che lo attendeva. Anche Prandelli, vero? Sulla pista. Anche Prandelli. Sì. Anche Prandelli. Poi bisogna capire se è stata una scelta loro oppure no. Prandelli è il commissario tecnico, in qualche modo, ma si sono già viste cose di questo tipo, sì, in Italia. Insomma, non è quello. Io, francamente, non ricordavo scene come quelle di Balotelli. E lui che accusa... non si capisce bene, che io credo anche i compagni di squadra, sicuramente, sì, leggendolo alla luce di queste cronache, insomma, mi sembra che Di averlo scaricato, è lui che scarica i compagni di squadra proprio in un momento che poteva, poi così non è stato, ma poteva rivelarsi un momento molto delicato, perché non ci sarebbe stato nulla di incredibile se qualche tifoso avesse contestato la squadra all'arrivo a Milano, così, sì, almeno a quanto ci risulta non è stato. No, proprio in quel momento no, ma non c'era nessuno, però sai, prende, se ne va, insomma, sì, comunque il clima che si è creato, io ne ho, guarda, alcune decine già di messaggi di questo tipo, ti leggo solo prima che mi capi sotto gli occhi, di Giovanni che mi scrive: ma non sai neanche quello che dici, ignorante, vai fuori dai coglioni, te e il tuo bel pisellone nero. Questo è ciò che pensa una parte dell'Italia, perché su questo punto possiamo non essere d'accordo, e probabilmente non lo saremo, Giampiero. A me ha dato fastidio lo scarico di responsabilità di Buffon, di De Rossi e dei senatori, che hanno detto: no, noi il nostro lo facciamo sempre, guardate quello là no. Questo a me non è piaciuto, ti posso dire la verità? Però bisogna vivere quelle situazioni. Guarda, io vedevo qualcosa di... Io avevo un po' conosciuto, non benissimo, avevo un po' conosciuto Prandelli quando lavoravo a Firenze, e ho conosciuto un allenatore, una persona sempre pacata, con grande ottimismo, era davvero riconoscibile in questi giorni. Il pessimismo di Prandelli era evidente, traspariva ogni conferenza stampa, ogni incontro, ogni stretta di mano. Buffon, Pirlo e gli altri cercavano in qualche modo di tirare sul commissario tecnico, il morale del commissario tecnico, ma non ci riuscivano. Io credo che Prandelli avesse in testa una sola cosa: ma perché mi sono affidato a uno come questo qua? Credo che questo sia stato il problema che lo ha tormentato per tutto il ritiro. Dopo la vittoria, il gol decisivo di Balotelli, c'è stato a Manaus un attimo, un brevissimo siparietto, nel senso che, come al solito, Balotelli ha sbagliato strada, gli succede spesso di piombare, no, non vuol mai parlare, ma è piombato a un certo punto in sala stampa dove stava parlando Prandelli, non ha detto nulla col suo solito cappellino storto e se n'è andato via rapidamente. Però anche in quella circostanza Prandelli era seccato da questa intrusione improvvisa e rapidissima di Balotelli. Sì. Credo che davvero il commissario tattico, insomma, non sia riuscito in nessun modo in queste tre settimane a gestire questo giocatore. Insomma, un Balotelli assolutamente ingestibile, e io dico davvero difficile da sopportare, sì. Continua a dire che vuole mantenere la sua vita privata privata e poi ci sì. devasta. Il problema è che adesso, no, lo so Giampiero, il problema è che adesso io sono disposto a, anche anzi voglio accettare questo ragionamento, vita privata fatti suoi e tutto il resto fatto di quello che conta in campo. Il problema è che ha fallito totalmente sul campo, il problema è quello, poi il resto, i tweet e tutte quelle altre baggianate, purtroppo è così e sì. Questi ragazzi ce li teniamo così, ha sì. fallito sul campo e purtroppo non solo sul campo, no, sicuro questo è sicuro. Il suo comportamento poi che sia stato preso come un pretesto non lo so, non lo voglio sapere, però comunque ha alimentato una spaccatura all'interno del gruppo della nazionale che poi è diventata qualcosa di insostenibile. Grazie Giampiero, buon grazie viaggio voi, buona giornata. Grazie Giampiero Timossi. Tutti convocati. Hai disappointi di cosa è il del Maio 2 in questa big situation. I'm different, I'm Mario, so what about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. I'm different, I'm Mario, so even if I was mine, I'm happy. I'm Mario, so I was mine, but I'm happy. More t-shirt saying why always me. I tried to work hard. I asked him, I said, why always me? See, it was 2012, see me a year ago. I found my head, I'm miles ahead. See, it's a battlefield with or without your armor, you're dead. Everyone's talking, yeah, right. So you better guard your head like better check. I'm done with a copper and lead. In case any of the feds don't hear me, I'm trying to cut three beamers and Lexus. Roll for the... Io è un grande giocatore, purtroppo in questa Coppa del Mondo non ha esploso come tutti aspettavamo, però ha trovato grande difficoltà come ha trovato il gruppo dell'Italia in se stessa. Adesso, come ti dicevo prima, bisogna prendere le decisioni con calma per che sia il futuro dell'Italia il migliore possibile. Lo conosco quando ero ragazzino, quando è venuto, aveva 17 anni, tutto si vedeva che ha grandi qualità e si vedeva anche che aveva un carattere un po' particolare. Però, sai, non lo so perché non l'alleno, non lo vedo, non sono in contatto da tanti anni, perciò non lo so. Quello che gli manca sicuramente è continuità, sicuramente quella rabbia, fame, quella che forse anche la passione, quello che puoi vedere da alcuni grandi campioni, come si preparano, come arrivano, come vivono. L'uscita dell'Italia, io commento solo una cosa, non ho capito perché si critichi solo Balotelli, che è l'unico attaccante che ha fatto un gol, è l'unico attaccante che ha creato occasioni da gol, gli altri attaccanti non hanno neanche creato le premesse, sembra quasi che sia uscito Balotelli, non capisco, siccome mi sfugge questo concetto non lo capisco, quindi non ho altro da commentare. Vedo che tutti i commenti, sì, evidentemente l'unico giocatore di pallone che ha l'Italia è Balotelli, perché si parla solo di Balotelli. Anche lì preferisco, non sono giocatore del Milan, quindi mi tengo per me cosa penso. Gli altri non si sono visti in campo, secondo me, quindi non capisco. Dunque abbiamo sentito Savia Zanetti, Mihajlovic e Adriano Galliani. Io insomma faccio fatica onestamente a non pensarla almeno un po' come Galliani. Detto che ha fatto schifo, lui come gli altri, come Paletta, come Thiago Motta, come Cassano per quanto ha giocato, come Immobile che l'altra sera ha steccato come quanto Balotelli, né più né meno. Quindi, ma perché è così? Però la colpa è di quello là. Salvo da Catania, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. A lei. Volevo fare una riflessione sulle parole, diciamo, dei senatori, di Buffon e De Rossi. Sì. Ovviamente ci siamo concentrati su Balotelli perché nel bene e nel male è... Però quelle parole io le intendevo dire anche forse nell'atteggiamento che hanno avuto questi pseudo fenomeni giovani. Perché mi ricordo le frasi di Cerci dopo la partita col Costa Rica: ah, in 20 minuti cosa posso fare? Se è un mondiale, il son, cioè, chiunque ha giocato da bambino in un cortile pensa al mondiale, sì. Non sì, la sì. Champions League o la Serie A. Quindi forse oltre al Balotelli personaggio era anche una critica a questi giovanotti che alla fine ancora non... Però Salvo, lei ha ragione. In una maniera un pochettino... Allora, lei ha ragione, però ci sono anche i senatori che hanno... Ad esempio, si ricorda tutto il battaggio che si è fatto intorno a chi mettiamo in porta con Costa Rica? Sirico, esatto, che ha giocato benissimo, sì, o Buffon? No, però Buffon, attenzione, il capitano, non è che poi possiamo lasciarlo fuori, se no magari quello si arrabbia, se no certi equilibri, certe dinamiche di gruppo magari vanno a farsi friggere. Allora intendiamoci, cioè, a me piacciono, lei ha ragione su quanto dice, è un mondiale e quindi giochi e la gioia di giocare anche un solo minuto. Però anche non eccellente umore, sto provando a usare tutti gli eufemismi che mi vengono in mente, non eccellente umore di Verratti dopo l'esclusione con la Costa Rica, lo interpreto da un lato come una forma velata di lamentela, dall'altra parte anche come un segno di personalità, quindi questo è, cioè, un giocatore come Verratti, cioè, era indiscutibile, no? Abbiamo discusso fino all'ultimo se portare Verratti o no. Poi anche nella partita con l'Uruguay, primo tempo migliore dell'Italia Verratti, però attenzione, c'è Sua Maestà Pirlo, allora non ragazzi, Pirlo numero uno assoluto, ma non sto discutendo questo, però c'è Sua Maestà Pirlo da tutelare, non possiamo mica mettergli uno che gli rompe i coglioni perché magari vuole giocare nel suo ruolo, magari queste cose, magari gli limita il raggio d'azione. E allora, attenzione, i senatori sono i senatori, Pier Michele, 800 24 00 24, il numero verde. Se non sai le cose, stai zitto, capra, parli perché hai la lingua, non hai un cervello. Grazie. Questo è un messaggio. Spero che non sia per me. No, per me, che figura. Ho capito. Senta, io volevo dire una cosa che in parte avete già detto, ma vorrei chiarirla meglio. Sì. Trovo Balotelli un ingiusto, fare di Balotelli il capro espiatorio, ma ingiusto motivo che continuiamo a non dire che Balotelli non è un fenomeno, punto. Uh-huh. Se Balotelli è costruito come un fenomeno, ha scritto un pezzo meraviglioso Massimo Gramellini qualche giorno fa sulla stampa. Sì. Lo dipingono così, anche perché il fenomeno, per Michele, no, ma certo allora, il fenomeno è quello che ha fatto 4 gol in 3 partite con l'Argentina, a 27 anni, però, perché è la prima volta che lo fa il fenomeno sul serio anche Messi. Sì, a parte quello, a parte che allora se vogliamo, ma voglio dire solo questo per capirci, cioè io trovo veramente vergognoso che i cosiddetti senatori sono, insomma, sì, ecco, se scarichino su Balotelli delle colpe che può avere perché non può risolvere le partite, sì, non è così forte, punto, non è colpa sua se non è così forte. Sono d'accordo, continua a dire che è forte, stiamo dicendo la stessa cosa, lo dico. Il seguito di quello che ha detto prima, sì, ecco, io vi ricordo che un certo Immobile che invece le partite le cambia, magari ne sbaglia tre ma la quarta la cambia, l'abbiamo visto con il Fluminense. Un certo Immobile era abituato a giocare con dietro un certo Verratti e ha fatto 26 gol con un certo Verratti dietro. Se gli mettiamo dietro Pirlo, che adesso mi perdoni, lei l'ha nominato come numero uno assoluto, e invece quello che, uno di quelli peggio questi mondiali, perché con Costa Rica e con l'Uruguay ha fatto solo passaggi laterali, diciamoci la verità. Poi anche dicendo che non campo, si... Ma Immobile in campo non gli ha fatto un lancio lungo, lascia giocare Verratti. Ho capito, però vede, no, ma ho capito, però tutti hanno diritto di giocare male tranne quello là, perché, no, ma lei ha ragione, non è un fenomeno, non è un fenomeno, tutti hanno diritto di giocare male tranne quello là, anche Immobile pure ha giocato male, poi possiamo trovare mille ragioni, Verratti e Pirlo e i movimenti sbagliati e le compagnie sbagliate, possiamo trovare mille ragioni, ma la ragione di fondo c'era lei, caro Pier Michele da Milano, ed è quella che ha detto. Allora, saluto Giovanni Capuano che adesso è qui, ciao Giovanni. Ciao Carlo. Che stamattina ha fatto un salto a Malpensa dove è arrivata la nazionale e subito dopo il traffico ci racconta tutto. Balotelli, talento calcistico, quello di sicuro. Poi siamo sempre lì che Balotelli è da anni che gioca quei 3-4 palloni bene e poi non si vede quando quando acquista la continuità e la partecipazione a una partita, penso che si potrà dire che è grande giocatore. Per oggi è più giocatore per i media. Tutti convocati. Allora, sentiamo subito le parole che Giovanni Capuano ha raccolto da Buffon, e sono anche le uniche pronunciate da un giocatore nazionale, mi sbaglio? Sì, almeno a Milano sono le uniche. Una volta sbarcati dall'aereo, in realtà probabilmente leggeremo nelle prossime ore qualcosa, insomma hanno raccontato gli inviati che erano su quell'aereo, c'è stato un contatto lungo il volo da Rio a Milano e poi a Roma, ad esempio hanno raccontato di questo Balotelli separato anche sull'aereo, sì. Lui e Fanny in un angolo del charter dell'Alitalia e tutti gli altri invece in un'altra parte dell'aereo, però insomma la verità è che è stato il rientro più mesto. Se sono menati? Contatto nel senso che sai, su quel volo lì ci sono giornalisti, ci sono i giocatori, c'è lo staff, e quindi insomma è anche il momento alle volte di fare i bilanci, di trarre alcune conclusioni di questa esperienza. Comunque è stato il rientro, io credo, più mesto che si sia mai visto, perché ci hanno tolto anche il piacere dei pomodori. Sì, anche il piacere dei pomodori, a parte che non c'era praticamente nessuno, l'indifferenza, pioveva tanto, e poi insomma c'era un'organizzazione, un sistema di sicurezza, li hanno fatti uscire dal varco dove di solito escono i latitanti, questo ce l'ha raccontato il personale della SEA, da lì fanno uscire quelli che devono essere portati via, ecco, da lì sono usciti i ragazzi della nostra nazionale. Ricordi come diceva Maradona, ha detto Maradona una volta, una delle tante cose dette da Maradona: meglio figlio di che poveretto ignorato, no? Sì, sì, ma io credo che se i nostri, tra un muso lungo, uno sguardo basso, una cuffia, guarda, io ho visto i giocatori della Juventus, ho visto Cassano, ho visto Insigne, ho visto Immobile, c'erano i giocatori del Milan, se avessero alzato lo sguardo al di là di quella rete che li separava dal resto del mondo, si sarebbero resi conto dell'indifferenza che li ha circondati. E guarda che è un peccato, perché questa nazionale è stata accompagnata da grande entusiasmo, ricordi il dato d'ascolto di Italia e Inghilterra a mezzanotte, quasi 20 milioni di telespettatori, stiamo parlando di un record assoluto, hanno buttato via tutto in 15 giorni. Buffon. Che forse si è esagerato un po' su Balotelli, qui ci sono polemiche in Italia. Non tutti, puoi rispondere su questo, non ti esimi, sappiamo che non ti esimi. No, non Gigi, parli. Non parli di queste cose. No. Sei un grande Gigi. Grande Gigi. Gigi, come stai dietro? Gigi? Non ti interessa cosa? Oh, Gisero, fammi sta posta. Gigi! Abbiamo fatto una brutta figura, detto. Gigi, fatti bravo! Allora Giovanni? Sì, Buffon è stato l'unico che si è avvicinato a quella rete, ha fatto un paio di scatti con un paio di ragazzotti che c'erano lì, le parole avete sentite, a essere cattivi, sì. Si potrebbe interpretare quel io non mi piace parlare di queste cose, io parlo di calcio, tradotto significa dopo aver cercato di gonfiargli la faccia come uno zampone, sì. Io non voglio parlare più di Balotelli perché mi ha scocciato. In realtà io ti dico, il body language di Buffon era semplicemente di uno che voleva chiudere sto portellone della macchina sotto la pioggia e andare via, secondo me non c'era assolutamente nulla di polemico, almeno una volta messo piede alla Malpensa, dove ti dico non abbiamo visto né Prandelli né Balotelli. Questo secondo me è l'aspetto ancora più sconcertante di tutta questa vicenda, perché ancora più di tutti gli altri sono stati raccolti sotto bordo, sono stati caricati su due van separati e sono stati scortati, letteralmente scortati dalla polizia fuori dall'aeroporto. Da capire se è questione di opportunità di ordine pubblico o richiesta dei diretti interessati, perché questo non si sa, no Giovanni? Sì, però assolutamente ingiustificato, è stato organizzato tutto dalla polizia. Te lo dico anche per esperienza, ci ho passato tanto tempo alla Malpensa. Voi fate così, queste cose le fa tutta la polizia, tant'è vero che anche a noi fino all'ultimo è stato tenuto nascosto qual era il varco da cui sarebbero usciti. C'era stato semplicemente detto certamente non usciranno dal tradizionale varco degli arrivi, dove non c'era nessuno, chiaro? Non c'era nessuno che li stava aspettando. Io lo voglio dire anche agli amici della polizia, della Guardia di Finanza, della Malpensa, che erano lì in 10, 15, in 20 a guardare le macchine tutte belle con su qualche accompagnatore, qualche fidanzata. Non c'era nessuno, non c'era nessuno, potevano tranquillamente farli uscire a piedi, non sarebbe successo assolutamente nulla. nulla. Senti, vorrei sentire anche il tuo parere su, prima di Davide da Vicenza, su quanto stiamo dicendo, le parole di Buffone dei senatori a te sono piaciute oppure no? Guarda, io ti voglio bene perché tu sei rimasto, tu e la Russa, in due a difendere Balotelli. Sono in splendida, eccellente compagnia. Assolutamente no, però siete indifendibili. No, allora, ma non tanto su Balotelli, metti che quelle parole fossero indirizzate anche a Cassano, a Verratti, a Cerci che magari sì, ma non stiamo a discutere di chi stavano parlando, di Darmian, che è stata una delle sorprese di questo mondiale. È evidente che il nodo era Cassano ed era soprattutto Balotelli. A me non è piaciuto che un minuto dopo l'eliminazione Buffon e De Rossi siano andati in televisione a sparare a zero contro le scelte di Prandelli, che evidentemente conoscevano e che mi è parso di capire avevano anche condiviso, perché è stato detto nella tarda primavera che Prandelli aveva parlato con i senatori prima di cambiare idea. Però detto questo, Balotelli è andato al mondiale ed era l'uomo che doveva fare la differenza tra il bene e il male. Lo era per investitura di Prandelli, lo era per autoinvestitura, perché lui l'ha sempre detto. Se non l'ha fatto, questo è una sua colpa. Secondo me, arrivati a 24 anni, li compie ad agosto, è anche la certificazione dei limiti di una carriera evidentemente non sarà quella che poteva, poteva essere. Ma questo lo dicono tanti che lo conoscono da quando era nel settore giovanile dell'Inter. È un ragazzo dai colpi straordinari, ma lì si ferma. L'ha detto anche Mihajlovic, che abbiamo fatto sentire. Lui comunque è condannato a non poter fallire mai, a non poter sbagliare una partita. Questa è la verità. No, lui è condannato a fare almeno il minimo sindacale, secondo quanto può dare, come capita in tanti ambiti della vita comune alle persone normali, sin da quando vanno a scuola, dove se tu puoi dare 10 ti viene chiesto di dare per quanto puoi. La verità è, io credo che il rapporto tra la nazionale e Balotelli per un po' sarà congelato, sarà sospeso. Bisogna vedere. Quelli come te sono meravigliosi. Io vi chiedo, dove eravate a dicembre quando Allegri faceva a pezzi la reputazione di Balotelli, spiegando chiaramente che era un giocatore ingestibile, e voi lo difendevate? Dove eravate a marzo quando qualcuno ha cominciato a dire: ma questo Balotelli serve alla nazionale o è meglio fare qualche altra scelta? Dove eravate? Qui? Bene, siete accorti dopo? No. Io sono convinto di quello che ho detto a gennaio, a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, e di quello che dirò pure ad agosto. Davide, stia lì, parliamo dopo. Adesso c'è Bet Corner, GR, e poi torniamo. Quote e pronostici. Altro giovedì mondiale, l'ultimo giorno della fase a gironi, si parte con due match alle 18 con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che crede nel miracolo, dato che all'Estadio Nacional di Brasilia gioca contro il Ghana. Vediamo dunque le quote SNAI per questo match. L'1, la vittoria del Portogallo, è quotata a 2,10, l'X è quotato 4, il 2 invece, con il successo del Ghana, è quotato 3. Cercano punti anche gli Stati Uniti di Klinsmann, che giocano contro la Germania a Recife, in un incrocio dal sapore sentimentale. L'1, la vittoria degli americani, è quotata 9,50, l'X è a 3,15, il 2 invece, con il successo della favorita Germania, è quotata 1,57. Alle 22 invece, all'Arena da Baixada di Curitiba, c'è Algeria-Russia, con le ultime speranze di ottavi anche per Don Fabio Capello. L'1 è quotato 3,60, l'X è a 3,50, il 2 invece, con il successo della Russia, è quotato 2. A San Paolo, la Corea del Sud sfida il Belgio, già qualificato agli ottavi. L'1, la vittoria degli asiatici, è quotata 4,75, l'X è a 3,75, il 2 invece, con il successo del Belgio, è quotato 1,73. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Bola pra frente, Brasil. Mais uma Copa do Mundo entre o Brasil. Ho detto a più riprese che per un allenatore il sogno, la voglia è quella di allenare un giorno la nazionale del proprio paese, e lo è anche per me. Esse è il paese del football. Mi è sentito qualcosa di sorte, stavo a casa sul divano, che era soft molto, ma questo è il mio lavoro e il bello anche di questo lavoro, che a volte succedono cose così in fretta che nessuno è che se le aspetta. Cioè, tu riesci a sopperire una volta, tu riesci a sopperire due volte, e poi alla terza azione tu sei in inferiorità numerica e tu prendi gol. Si prende gol. È inutile pensare sempre alle punte, ai bel. Se non sei a sostanza si prende gol, è quello che ho sempre detto. Da 50 e dico gli equilibri, il tacco, la punta, il numero, il titolo, il gol. Libri. Poi se si concede quello che si concede stasera si perde la partita, poi si può stare a guardare tattiche, numeri e sostituzioni, chi ha giocato, si va a guardare chi ci pare, con più sostanza, se no si vince la partita, punto. Allegri, Mancini, Spalletti, chi volete? 800 24 0024. Vi ricordo che le parole di Albertini sul nuovo CT: ci saranno tempi stretti, lunedì ne parleremo in consiglio, non ci sono i tempi perché a sceglierlo sia il nuovo presidente, gli stessi che lo eleggeranno dovranno prendersi prima la responsabilità della scelta per l'Italia, dunque sarà il consiglio federale a designare il nuovo CT. Davide da Vicenza, buongiorno, chi vorrebbe lei? Buon pomeriggio mister Genta, buon pomeriggio e grazie della convocazione. Grazie a lei. Io vorrei Spalletti. Spalletti. Dico la verità. Mm. Sono un estimatore di Spalletti perché mi è sempre piaciuto come allenatore, anche perché sono interista ed era molto vicino anche all'Inter, per cui poi è sfumato. Io anche a me Spalletti piace molto, io però radio diversa, a me piacerebbe più Mancini. Ah, a lei piacerebbe più Mancini? Io sì. Io però secondo me Balotelli si rischia un po' il posto, perché non è un problema, Non è un problema. Io volevo sollevare intanto l'indignazione da parte mia di questa gente che twitta sul colore della pelle di Balotelli, che ormai è ora di finirla. Probabilmente tanto non finisce, Davide. Finisce. Ma no, ma secondo me probabilmente sono invidiosi della favola calcistica che sta vivendo Mario. Mm-hmm. Sì, lo penso anch'io. E dicono appunto queste frasi di negro di merda, di questo e di quello. E io sono stanco. Per quanto riguarda la critica a Balotelli, secondo me Balotelli non ha mai avuto nessuno col quale gareggiare per un posto in nazionale, nel senso che lui sa benissimo di essere uno dei pochi attaccanti, forse l'unico attaccante in Italia con potenzialità fisiche importanti. Diciamo che ha sbagliato comunque anche Prandelli, perché comunque sia ho sentito dire Prandelli su delle interviste che Mario è fatto così e ce lo dobbiamo tenere così. Adesso non puoi cazziarlo in spogliatoio solo perché comunque sia ha fatto un primo tempo disastroso. Sì, ma mettiamoci anche la partita con Costa Rica, per onore di cronaca. Però ha ragione Galliani quando dice: ma allora, ma è uscito solo lui o è uscito tutta l'Italia? Ma, cioè, chi salviamo? Ok, lui va bene, diciamo, ha fatto schifo. Sì. Due gol ha segnato l'Italia, uno ha fatto lui. Lasciamo perdere anche la partita con l'Inghilterra, ha fatto schifo. Ma non è che Immobile abbia fatto di meglio, non è che Parola abbia fatto di più. Se vogliamo dirla tutta, comunque anche Chiellini secondo me era in una situazione fisica molto precaria. Molto precaria. Si è visto, non diamo la colpa alla preparazione al caldo, perché il caldo c'è per tutti. Perché io ho visto delle partite di squadre comunque europee, tipo Germania, che comunque sembravano addirittura tutti drogati, perché correvano come dei pazzi. Per cui voglio dire, la situazione fisica secondo me lì... Mi riallaccio al discorso che ha fatto lei prima, che secondo me lo spogliatoio, la squadra comunque è partita un po' spaccata. È partita spaccata di brutto, non un po' spaccata. E ripeto, ma la colpa di, cioè la responsabilità, non voglio parlare di colpa, che è una parola sbagliata, di questa è del manico, no? È Prandelli che non è riuscito a gestire, sappiamo bene come in qualunque spogliatoio ci sia uno zoccolo duro, ci siano dei senatori, ci siano persone con maggiore personalità, però non possono essere loro a determinare qualunque cosa e non devono neanche essere loro ad uscire e a dire è colpa di quello. No, questo non, secondo me è sbagliato. Perché? Perché uno non mi piace, lo ripeto e continuerò a ripeterlo, che Buffon dica no, noi diamo sempre tutto. Quello là o quelli là invece no. Questo a me non piace. Ho diritto che non mi piaccia questo, questo, tutto questo, perché come mi ha scritto, intanto perdonate, io do un'occhiata anche alle, alle tantissime mail che mi arrivano, che mi fanno piacere a prescindere. Vabbè, questa, se Balotelli è un coglione, cos'è, uno che fa fallo, fa un fallo d'espulsione sotto il naso di un arbitro che non aspettava altro, ci obbliga a giocare la partita decisiva, vabbè, questo è relativa a, all'espulsione di Marchisio. Noto però che ad esempio Suarez, Luis Suarez, enorme giocatore, praticamente con quello che ha fatto si è compromesso una buona parte di carriera, che beccherà, non credo che verrà squalificato a vita perché non sta né cielo né in terra, però beccherà quelle sette giornate come minimo, no? Mondiale ampiamente finito, una mezza condanna a morte sportiva per l'Uruguay, che ovviamente senza Suarez dove va? Eppure, oh, lì ce ne fosse uno, almeno pubblicamente, cioè si arrampicano sui vetri piuttosto. Piuttosto sento Lugano dire Chiellini è un simulatore, oppure è Chiellini che è andato a sbattere contro la dentiera di Suarez. Tabarez stesso lo ha difeso oltre i limiti della decenza quasi. Però questo secondo me è importante, ragazzi. Questo è importante. Non è che noi bravi, noi facciamo sempre tutto, ma a colpa di quello là. Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Benissimo. Quello là, già ho capito chi è quello là, eh? No, ovviamente. che poi sono è quello là o sono quelli là, perché tu sai che ti riferisci a De Sciglio, eh? Esatto, signor De Sciglio, mai visto che mondiale che ha giocato, eh? No, a De Sciglio anche ad Aquilani. Hai visto come ha giocato male Aquilani? Sì, Aquilani, no, dicevi no, dicevo, bella giornatina anche questa. Dibattito su Balotelli, immagino, eh? Ma sì, su Balotelli, su Cassano, ma soprattutto, più che su loro due, su queste parole, su queste uscite di Buffon e De Rossi e la vecchia guardia, il gruppo storico, eccetera, eccetera, eccetera, perché a me non sono piaciute, a molti ascoltatori sì, e a te... Guarda, io scusa, adesso posso fare un momento, vuoi mettere la musica di Forum? Mi fa fare un attimo l'avvocato difensore di Cassano. Aspetta. Ma perché anche lui, guarda che lui è insieme a Balotelli, non è solo Balotelli. Non so se insieme a Balotelli. Come no? Non è insieme a Balotelli, non è mi risulta il contrario, cioè mi risulta che fosse nel gruppo con quelli della Juve, quelli del Parma, e che non vuol dire fare dalla parte del bene o del male, però sì. Insomma, da quello che mi risulta era nel gruppo degli Juventini, di quelli del Parma e di De Rossi. Questi erano quelli che frequentava di più. Detto questo, eccola qua, vai. Vai Pierino, vai, ti piace? Signori della corte, qui ingiustizia è fatta. Vabbè, tutto adesso, dai. Te lascio lì, gestisci da te. Potevo fare 3 minuti. Allora dimmi. No, vabbè, a parte le battute, insomma, mi sembrano due situazioni molto diverse questa volta, Balotelli e Cassano, sinceramente. Poi Balotelli ha segnato, Cassano no. Balotelli una partita bella l'ha fatta, Cassano no, per carità. Poi Balotelli ha giocato sempre titolare, Cassano ha giocato entrando dalla panchina e fuori ruolo. Il tema però sto giro è Balotelli, vi prego, perché sennò Cassano mi sembra tipo il Jolly, il Fil Rouge, no? Ogni volta c'è casino, mettiamocelo a mezzo. Questo giro mi risulta da testimonianze dall'interno della squadra di altri giocatori che veramente sia stata una figura al di là di una certa, anzi, se vogliamo dirla tutta, è abbastanza logico che Cassano e Balotelli non siano stati, cioè non li puoi mettere insieme, perché anche da un punto di vista strettamente tecnico, il fatto che Balotelli sia stato titolare inamovibile di questa squadra ha tolto spazio a tutti gli altri attaccanti, ha tolto spazio pure a Cassano, cioè sì. Io non credo che sì, però Pier, fammi capire, per esempio, no, però però fammi capire, ovviamente non sto dicendo io che i grandi imputati sono Balotelli e Cassano, sto cercando di interpretare qual era l'umore del gruppo, e leggo da più parti che diversi giocatori di questo gruppo, poi non so se fossero cena insieme tutte le sere, però diversi giocatori di questo gruppo, il reinserimento, leggo, il reinserimento di Cassano non l'abbiano preso bene. Sì, è una notizia di 3 mesi fa questo. Sì, sì, è vero, ma questa è una notizia di 3 mesi fa, secondo me. Ed è da quello che appunto mi risulta, è una... Allora, non è che stiamo parlando del personaggio più facile del mondo, eh. Io adesso non vorrei... Poi questo ruolo di avvocato difensore di Cassano mi ha anche un po' rotto le scatole. Nel senso, Cassano ha giocato un brutto mondiale, perché non ha avuto le condizioni ideali che forse in certe circostanze gli si potevano dare, ma quando le ha avute non ne ha approfittato, perché comunque insomma non è stata all'altezza, soprattutto contro la Costa Rica. Contro l'Uruguay a me non è dispiaciuto, perché andava a fare un ruolo non suo, ha fatto il possibile, guadagnare qualche punizione, ha provato a inventare qualcosa, non mi è sembrato responsabile. Contro la Costa Rica se l'è giocata malissimo, e lo dico con la M maiuscola, malissimo. Quindi lui come gli altri, sia chiaro, lui come gli altri, però voglio dire, siccome sappiamo il talento che ha, punto di partenza, che ha talento, è chiaro che aspetti delle cose, quindi, però ecco, dal punto di vista del comportamento, insomma, mi risulta, al di là di questa leggenda metropolitana del bicchiere, mi sembra veramente che sia successo poco, anzi che addirittura ci sia stato sull'aereo da Natal a Rio de Janeiro del ritorno una specie di pubblico elogio che gli ha fatto Buffon davanti ad alcuni compagni su come ha accettato la panchina e il fatto di non essere mai titolare. Però ripeto, parlare di Cassano è veramente parlare di un comprimario di questo mondiale, perché di questo è stato. Se volete un argomento nuovo, parliamo di Balotelli. Se volete un argomento nuovo, non ne parla nessuno. Ma io mi scrivono su Twitter, capisco, ragazzi. Piccola lezione di giornalismo, non sono io che posso dare lezioni, per carità, ma piccolo così, insomma, spunto giornalistico. Se il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Repubblica, il Corriere dello Sport mettono in prima pagina Balotelli, allora o siamo tutti rimbalzati. No, ma è evidente, ma Piero, si parla di lui sulla poi siamo time, non ci finisce Darmian, al quale auguriamo di finirci. Sì. Balotelli è uno, io ho capito, Balotelli è una rockstar. Certo. Cioè, uno che esce da una figura, posso dire, di merda, ma non soltanto sua, della nazionale, che ieri si tinge i capelli. Sì, si presenta con la cresta bionda, come dire, va bene, avete dato la colpa a me? Guardatemi qua, fresco come una rosa. Però capisco. Non mi piace. Io non glielo consiglierei, direi sta buono, sta schiscio 3 giorni, stai tranquillo. Non scrivere su Twitter messaggi un po'... Il messaggio ai brasiliani, ma manco Obama. No. Senti. Ma perché, dai, è un bel messaggio, secondo me, anche sincero. Però sta zitto, hai ragione. Fai una bella intervista con il giornalista che preferisci, non io, fai un'intervista con Genta. Sì, anche perché siamo rimasti io e la Russa, io e la Russa siamo. Prima Capuano mi faceva notare che comunque non a difenderlo, che non ho nessuna voglia, nessuna intenzione, neanche e nemmeno mi pagano, nonostante qualcuno lo pensi. Ma non a difenderlo, però a comunque mettere in discussione tutte queste dinamiche siamo rimasti con la Russa, mi diceva prima Capuano. Però c'è qualcun altro, aspetta, Pier. Mario Boni, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno Pierluigi. Questa mattina ha scritto, questa volta sto con Balotelli, non mi piace che usi come scudo il razzismo, ma trovo che le dichiarazioni di Buffon e De Rossi siano vergognose. Spiega il concetto, Mario Boni. Beh, mi viene da dire che Buffon ci ha rotto un po' le palle con questo modo di sentenziare ogni volta che parla, no? Dimenticandosi che lo sport purtroppo è severissimo. Perché se fossi Balotelli, io vorrei essere l'uomo che consiglia Mario Balotelli, che non è che stia simpaticissimo, però mi comincia a diventare simpatico. Io ricomincerei a dire, la metà squadra era divisa perché ha fatto giocare Buffon dopo l'ottima prestazione di Sirigu. E con Sirigu noi abbiamo vinto e con Buffon abbiamo perso. Poi io direi anche a De Rossi, De Rossi, ti ricordi quando nel 2006 ha dato la gomitata e ha preso 4 giornate di squalifica e adesso rompi tanto le palle a me che ho fatto 45 minuti contro contro l'Uruguay, ed è tutta colpa mia. Io direi, se fosse Mario Balotelli, invece di usare la scusa del razzismo, che è una grandissima cazzata. Quindi sarebbe meglio, è vergognoso, perché devono starsene zitti, che lo sport è crudele, e Buffon non è più il Buffon di qualche anno fa, è meno bravo di Sirigu. E io, se fossi cattivo e fossi Balotelli, farei una dichiarazione in questo senso: noi con Sirigu abbiamo vinto, con Buffon abbiamo perso. De Rossi potrei anche dire, perché si è fatto male De Rossi? Forse vuoi vedere che non era così in grandi condizioni per arrivare al mondiale? Forse perché si è fatto male? Io userei questi toni, perché non mi piace forse Balotelli essere attaccato così, senza dire nome e cognome, l'ha fatto intuire. Sono tutte cose che non mi piacciono, e quindi mi girano le palle. L'ha toccata piano, Pierluigi. Da rigatissimo. Ma sì, insomma, è chiaro che qui il rischio di fare il bene e il male c'è, nel senso che Buffon è uno che in carriera ha vinto talmente tanto che nel momento nel quale, dopo una coppa del genere così disastrosa, arriva e accusa qualcun altro, mi pare evidente che induce una parte importante dell'opinione pubblica a dire, ecco, questi sono i bravi ragazzi, e poi di là ci sono le vere marce. Quindi da questo punto di vista è chiaro che poi alla fine dovremo avere anche la forza di non fare a prescindere un atto di fede a favore dei veterani. Detto questo, la terza partita che ha giocato Buffon è stata eccezionale, e complessivamente, insomma, per me Barzagli è stato il migliore del mondiale dell'Italia. Al secondo posto ci metto Pirlo assieme a Verratti. Insomma, mi sembra che la vecchia guardia abbia tenuto, certo Verratti è un giovane, però mi sembra che l'asse Barzagli, Pirlo, Marchisio, De Rossi, Buffon abbia tenuto, sinceramente, insomma. E soprattutto penso che all'interno dello spogliatoio sono successe delle cose, insomma. Io credo che qui il più arrabbiato di tutti con Balotelli è Prandelli. Solo do per certo, Prandelli è avvelenato, Prandelli si sente tradito, perché ha dato a questo ragazzo una fiducia enorme e si è giocato la panchina della nazionale su questo ragazzo. Guardate che si potevano anche prendere altre strade, Sì. Voglio dire, io non l'avrei prese. Io quindi, da questo punto di vista, ti dico che secondo me Prandelli, io lo capisco quando Prandelli non ha rinunciato a Balotelli all'inizio del mondiale, perché è un giocatore che comunque ti fa intravedere delle schegge di talento e la possibilità di essere qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri. Il problema, sì, è che questa cosa tu la vedi una partita su sei. Lo so, questo l'abbiamo detto molte volte. La carriera di Balotelli, l'anno migliore dal punto di vista realizzativo è stato questo. Cioè, un anno come questo, che è stato un anno negativo al Milan, è stato il suo anno migliore dal punto di vista realizzativo. Questo vuol dire che lui non è un attaccante costante come rendimento. Certo. Ha un sacco di limiti. Il problema è che questo giocatore, che non è Messi, che dicevo prima, sta cominciando a giocare il primo mondiale straordinario, il primo mondiale da Messi, a 27 anni. Non è Messi, non è Cristiano Ronaldo, che pure sta giocando male, non è Suarez, non è Neymar, non è uno di questi. Però è condannato ad essere sempre quello che sposta, no? Quello da cui dipende tutto. Secondo me l'errore di fondo, è questo, no? Se lui avesse un profilo diverso, se lui avesse un profilo un po' più basso, un po' più tranquillo, sarebbe meno condannato a questa cosa qui, e avrebbe la possibilità di gestire i momenti di difficoltà. Ma non è così, non è così, posso Carlo dire una cosa, certo. Posso intervenire, ma non è così, perché Balotelli, come se io vado fuori, faccio una pisciata sul muro e mi fotografo qualcuno, ovvio che vado sulle riviste patinate e dico, guarda questo stupido ha pisciato contro il muro, o faccio un incidente, ti fa la foto e vai sul giornale, guarda come disattento, continua a fare incidenti, sono cose, e il fatto che lui va sulle riviste e viene puntato, viene messo all'indice della gente, ma sono cose che capitano a tutti. Adesso colpevolizzare Balotelli, che tra l'altro ha fatto un gol e forse non ha giocato molto bene, ma gli altri, l'abbiamo visto giocare gli altri o no? Io ricordo anche il liscio di Chiellini sul passaggio indietro contro Costa Rica, e che ha causato il rigore non fischiato. Cioè, vuol dire, la prestazione dell'Italia adesso, puntare tutto il dito, come ha fatto Buffone, come ha fatto De Rossi, c'è una cosa, una mancanza di responsabilità, di autocritica clamorosa. Ma lo stesso Prandelli, con quella stupidata del codice etico, quando è successo cose riprovevoli sia a Chiellini e sia a De Rossi, discorsi ha minato quella che è la credibilità di un allenatore. Quindi adesso io sento dire, mi tocca difendere Balotelli, mi sembra incredibile, tra l'altro anche se nel Milan, però ecco, mi sembra una cosa assolutamente superficiale non analizzare che il movimento italiano è ridicolo con questi stranieri, con un po' come nel basket. Quindi il livello del calcio italiano è drammatico, e poi non lamentiamoci se andiamo a giocare il campionato del mondo e veniamo cacciati via, eliminati giustamente. Questo è il mio punto di vista. Mario, grazie. A voi, ciao a tutti. Ti abbraccio. Tutti convocati. Well, are you happy now that the gods are dying? What do you dream of? Heston with amnesia to be a. You should be happy now. No one to break to. Well, how would you love to break your knees from begging? Break my heart. Well, it's a broken smile, breaking their hearts, breaking their minds. Nosotros no lo queremos por su... Lo queremos como jugador genial. Y como jugador genial a veces lo hacemos... Me parece un chiquilín de barrio. I may be lonely now, but I'm happy alone. Honest, ain't lonely alone. What would we talk about anyway? Peccato, perché poi con l'espulsione di Marchisio sicuramente è cambiata la partita. Ecco, sull'arbitraggio. Guarda, ci può stare, poteva essere anche giallo, però visti i nuovi regolamenti penso che l'avessi fatto io, probabilmente sarebbe stato quello. Quel morso di Suarez l'avessi fatto tu? Ma io penso che il morso di Suarez sia chi deve giudicare, spiace perché non è la prima volta, succede ai grandi campioni. Non è la prima volta, adesso sarà chi deve giudicare, ma penso che per noi sarebbe una magra consolazione. Se Suarez avesse dato un morso a Mihajlovic invece che a Chiellini, al Mihajlovic giocatore, che succedeva? Ah, avrebbe dovuto cambiare dentiera dopo. Diciamo, è il minimo. È stato chiaro Mihajlovic, abbiamo sentito prima di lui Materazzi e prima ancora Mujica, presidente uruguayano, dire vabbè, si comporta come un ragazzo del barrio. Piano, quante giornate gli danno? Non è la prima volta, no, è esattamente la terza. 2010 contro Baccai, 2013 morso Ivanovic e adesso qualcuno chiede l'ergastolo, la squalifica a vita. In realtà ha condannato sportivamente a morte, credo, su Uruguay, che senza questo giocatore è poco, pochissimo. Però stranamente all'interno Uruguay e pubblicamente lo difendono tutti. Non hanno alternative, perché è troppo importante, perché è veramente la differenza dell'Uruguay, quindi lo difendono tutti, ma insomma mi sembra anche molto maldestro il tentativo di difesa, insomma. Un mi sembra che abbiano delle armi, ma stai scherzando, delle armi ma proprio vetri, unghie sui vetri. Lugano che dice no, ma guarda che forse è stato Chiellini ad andargli in bocca con la spalla, cioè, come dicevamo ieri, la famosa battuta di Woody Allen, no? Il tuo naso ha colpito il mio pugno, insomma. Sì. Siamo messi così. Quante gliene danno per te? Io penso, ma si parla di 7 giornate. Io credo che il mondiale sia finito, senza alcun dubbio. Quindi poi alla fine la cosa fondamentale da capire è se gli danno le 4 giornate minimo di un eventuale quanto improbabile qualificazione per la finale. Credo che veramente il grande eliminato, cioè, secondo me con una battuta possiamo dire che in questa partita fra Italia e Uruguay ci siamo eliminati tutte e due, perché bravo. L'Uruguay senza Suarez mi sembra che difficilmente possa andare lontano, anche perché Cavani non benissimo, anche perché Cavani di questo momento non è il giocatore del Napoli di un anno e mezzo fa, ecco. Sì. Sicuramente. Francesco Modena, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, ho sentito dire che Prandelli se la prende con Balotelli, ma primo responsabile della sconfitta è proprio lui, che non ha saputo dare un gioco efficace alla squadra, quindi comunque lasciamo perdere questi punti. Io volevo parlare, volevo indicare il nome di un di un ex giocatore, di un grande giocatore come Gentili, che secondo me potrebbe essere un buon tecnico. Grande giocatore, campione del mondo, ha carisma, ha guidato la nazionale Under 21 vincendo sempre, poi è stato mandato via, io non ho mai capito il perché. Lei che ne dice? Ma dico che è un po' fuori dai giri, lo stanno ancora aspettando a Sion, credo, in Svizzera, dove non si è presentato. Io credo che, vabbè, si può fare un lungo, è stato fatto anche il nome di Cannavaro, però credo che ci voglia un allenatore, un selezionatore, un CT diverso da questi. E il mio preferito rimane Mancini. Anche per Luigi so che pensa, ripeti pure quello che pensi, cioè non serve un allenatore sofisticato come Spalletti, ma anche Gentile non saprei, qualcuno suggerisce Mangia eccetera, ma mi sembra che i tre nomi che si fanno siano quelli che devono, insomma, che siano quelli buoni, no Pier? Assolutamente, no, i tre nomi sono questi, sono loro stasera i migliori che abbiamo, cantava De André, sì. Però insomma mi sembra che sì. È chiaro che il migliore sarebbe Ancelotti, però non si può fare. Il migliore sarebbe tutta la vita Ancelotti, però io credo che ci siano, quando entri in quella dimensione lì, che non è soltanto un discorso economico, è anche un discorso economico, perché sicuramente la differenza è una differenza pesante. Quando quello che ti può offrire la federazione è un quarto o un quinto di quello che ti offre il club, siamo tutti bravi a dire che no, quando uno è ricchissimo, che ti frega dei soldi, e ci può anche stare, e conoscendo Ancelotti forse uno ci può anche ragionare in questi termini, perché non mi sembra un uomo avido, però insomma stai a Madrid, stai bene, ti amano tutti, hai vinto la Champions League, perché ti devi andare a cercare una grana di questo tipo, non so, mi sembra ma anche perché sono fuori mercato, cioè dici bene tu, chi rinuncerebbe a 7 per avere un E3, un E4, un E5, qual è l'ingaggio del CT della nazionale? Siamo onesti. Dario Ricci, infatti, dimmi. Eccolo là, Dario Ricci. Eccoci. Dove sei? Anche il signor Bardo. Dove che sei? Lo saluto calorosamente. Dove sei? Sono al check out qui da Itacurusa, perché ci stiamo riavvicinando a casa, Carlo, tra poco ci riabbracceremo. Domenica volo di ritorno, prima però rapido passaggio a Rio per un paio di appuntamenti di lavoro, qualche intervista, magari Uruguay-Colombia, insomma sempre in campo, sempre pronti. Che hai detto, Pia? C'ho degli appuntamenti. In vista anche delle Olimpiadi, questa è una missione diplomatica, stiamo già lavorando per le Olimpiadi 2016. Io non, il mio futuro più lontano è stasera. Olimpiadi sono qualcosa di altrove. Una bella birra ghiacciata. Qualcosa di altrove. Senti, hai qualche novità su Suarez? Guarda, su Suarez vi riporto le parole interessanti di Alcides Ghigia, uno che qui in Brasile ha lasciato un certo segno, il Maracanaz, infatti se lo ricordano bene anche tutti i brasiliani, tra l'altro l'Uruguay con la Colombia tornerà al Maracanaz in una Coppa del Mondo a 64 anni dal Maracanaz, quindi sicuramente occasione non banale. Alcides Ghigia, incontro tendenza con i media uruguaggi, con quello che ha detto anche ieri il capitano uruguayano, no? Ha detto, dice, questo qua o è un rapace o è un pazzo, quindi questo suo giudizio su Suarez, cioè dice quello che ha fatto non sta né in cielo né in terra, perché non è una guerra. Poi va anche detto però, Carlo, che d'altra parte, come per Luigi ha visto sui media brasiliani eccetera eccetera, si è sottolineato anche come questo morso sia stato anche un po' il segno e la volontà della ferocia dell'Uruguay di agguantare quella partita, no? Quindi per alcuni aspetti io un po' lo invidio pure quel morso, perché l'avesse fatto uno dei nostri sarebbe stato quantomeno anche un segno di vitalità, ecco, diciamo così. Sì, l'ha scritto anche qualcuno, un segno di vitalità francamente un po' eccessivo, anche se ora ho il traffico, però vorrei introdurre subito due argomenti. Il primo è: cosa ne pensate, a Pardo, Dario Ricci, sulla retromarcia di Pirlo che ha fatto sull'aereo? Mi sono ritirato, ho fatto il mio discorsetto, l'ho detto molte volte, però se mi chiamano sono pronto. Pirlo sull'aereo ha detto questo. E in apertura di trasmissione dicevo, ok, facciamo 2+2, il nuovo CT non sarà Allegri, no? in linea di massima. Secondo te, presidente federale, c'è un tweet di Paolo Condò. Bisogna ripartire, scrive Paolo Condò, da un presidente federale che dia un segno immediato di indipendenza, capacità e autorevolezza. Il nome è ovvio, Pierluigi Collina. Tutti convocati. E i 18 di altra parte Josh Carter, 19 punti per lui, persino anche i 22 di Haynes e i 18 di Hunter. Jennings, palla in mano. Blocco a sinistra di Hunter, l'uscita di Melli, pallone ora gestito da Marquis Haynes, è aggressiva la difesa di Milano con il quasi recupero di Niccolò Melli, palla fuori per Jennings, Matt Jennings, la palla che danza sul ferro, poi il pallone recuperato da Melli e ora è Milano che avrà l'ultimo tiro della partita. Gerrard contro Haynes, i fischi della palaestra, Gerrard, Curtis Gerrard, si va a gara 7, la prudenza di Gerrard che ammutolisce il palaestra, una finale splendida risolta dalla prudenza di un campione. Stiamo guardando anche dell'altro, non solo i mondiali ma anche la finale scudetto italiana del basket, che andrà a gara 7, anche qui spareggio, sudden death, chi vince è campione d'Italia, chi perde è secondo. Fosse Siena sarebbe una meravigliosa seconda, fosse Milano sarebbe un fallimento, la differenza non è cosa da poco. Volevo chiudere il discorso con Pardo e Ricci sui due punti che ho toccato. Da dove parti, Pier? Dall'idea di Paolo Condò o dalla retromarcia di Pirlo? Partiamo dall'idea di Condò. Io penso che serva uno stacco rispetto al passato, no? Adesso si parla molto, molto di moda in questo periodo di rottamazione. Devo dire che qualcosa di inusuale e deve essere dato atto a Prandelli e anche ad Abete, perché insomma poi alla fine le persone vanno giudicate dai comportamenti concreti e dallo stile, e quando si rinuncia a un incarico come quello di presidente federale o CT della nazionale si rinuncia a dei soldi, si rinuncia al prestigio, si rinuncia a un certo tipo di lavoro, oltretutto lo si fa alla fine di un'esperienza fallimentare, quindi non lo si fa neanche in un momento in cui hai il telefono che ti squilla ogni 5 minuti con 40 proposte, no? Poi io, secondo me, Prandelli potrà comunque riciclarsi a livelli importanti, però voglio dire, se se ne fosse andato nel 2012 avrebbe trovato chissà quante panchine dopo la finale persa e il secondo posto all'europeo. Oggi magari è un po' più complicato, quindi questo va detto ed è il primo elemento. Ci vuole un presidente nuovo. Quando ieri sentivo parlare di Albertini, io non ho niente contro Albertini, che stimo molto, però mi sembra sarebbe una scelta di continuità. Secondo me qui si deve andare verso una scelta di tipo diverso. Io non sarei neanche in assoluto contrario alla contaminazione con altre culture calcistiche. Arrivo a dirti una cosa che in Italia, ma nel tipo, per esempio, a livello di CT Hiddink che ha firmato con l'Olanda, però voglio dire, in generale, in assoluto, forse è arrivato il momento di uscire un po' dal nostro, è chiaro che noi abbiamo i migliori allenatori del mondo, su questo rimango convinto, no? Sì. Però forse negli ultimi anni abbiamo anche bisogno di trovare delle contaminazioni con altri mondi, altre culture, altre idee calcistiche, sì. Insomma, sì. Quello che sta facendo Van Gaal all'Olanda mi colpisce molto. Ci sono ovviamente degli allenatori, delle culture calcistiche che noi le guardiamo da fuori, ma le abbiamo viste sempre comunque con la consapevolezza e questa butade che tanto poi gli italiani all'ultimo momento reagiscono. Forse è arrivato il momento di cominciare un attimo a aprirci di più, perché non siamo più purtroppo quelli degli anni 90. Sì, le condizioni potrebbero essere anche quelle ideali, no? Vieni da due mondiali falliti, due mondiali in cui sei uscito al primo round, e quindi le condizioni potrebbero essere quelle ideali. Mi domando chi potrebbe prendersi. Albertini ha anche detto: non c'è tempo di eleggere il presidente federale, dunque sarà il consiglio lunedì a vedere quali sono gli allenatori. Non so se, vista l'urgenza e vista la struttura, un po' così. Sarà Mancini o sarà Allegri? Io sì. Sono abbastanza convinto che non si esca da questo duello. Cosa mi dici su Di Pirlo invece? Allegri è il favorito. Su Pirlo, ma che abbiamo capito anche un'altra cosa alla fine, cioè che l'altro giorno nel post partita il livello di delusione, di adrenalina e di rabbia ha portato a una serie di cose, no, un po' di impeto, un po' ad effetto. Pirlo l'aveva già detto che avrebbe smesso, però insomma l'altro giorno l'ha confermato con certezza. Adesso sembra aver già cambiato idea. Magari Prandelli a Bete, se vai oggi a chiedere, magari trovi Prandelli che ti dice: ma sì, se il nuovo presidente federale mi dovesse confermare la fiducia, rimango. Ovviamente è una battuta, perché Prandelli invece in questo è stato veramente molto molto elegante e gli va dato atto. Penso che Pirlo serva ancora. Io penso che Pirlo serva ancora. Detto questo, un mondo del calcio che esce da questa esperienza implorando a Pirlo di rimanere è una cultura di sconfitti. Sì, è molto di retroguardia. Dai, un giocatore meraviglioso, monumentale, ma ormai purtroppo anziano. Tanto più che in quel ruolo lì, e questa è una delle poche consolazioni. Guarda, le due consolazioni che abbiamo avuto in questo mondiale sono state vedere che dietro a due totem assoluti, due monumenti, due eccellenze, due bandiere, tutto quello che di più bello si può dire e scrivere come Pirlo e Buffon, ci sono due giocatori come Verratti e Sirigu che si sono fatti trovare pronti e poi possono rappresentare il futuro per tanti anni. Ma guarda, poi ti dico, detto questo, se a settembre il signor Pirlo dice: guarda, io altri due anni, se ci sono le condizioni me li faccio, se io fossi commissario tecnico non è una cosa che non scarterei. Poi se è Allegri vediamo, il CT è Allegri, vediamo, diventa un po' più difficile. No, ma io sono d'accordo, cioè io sarei dell'idea di ci sono le condizioni anche in questo caso per voltare totalmente pagina, quindi tutti in piedi per Pirlo, Buffon e chi ha dato questa, lo stesso Barzagli, che ha dato questa nazionale. Mi sembra che quelli dietro, anche qui non sono particolarmente pessimista, i nomi che hai fatto e che ovviamente sono da sottoscrivere, aggiungere De Sciglio, che qui ha giocato poco per problemi fisici, perché è un giocatore secondo me clamoroso, Verratti immobile, Insigne e Giuseppe Rosi, che è pure ancora giovane. Insomma, ne abbiamo tanti, non siamo così sì, proprio sfigati e depressi. Anche dai, secondo anche destro che non una... è stato destro. Non siamo sfigati e depressi. Guarda, secondo me, sinceramente, la nazionale va meglio dei club. Ah, come no? Io in generale il movimento calcistico italiano secondo me va meglio dei club, perché il problema dei club è un problema strutturale. Se parliamo Beninazzo ci spiegherà benissimo che è un problema proprio di investimenti, di fatturati e di come vengono spesi i soldi. La realtà tecnica del nostro calcio sicuramente non vive l'epoca d'oro di qualche anno fa, ma è comunque ancora competitiva e con una gestione diversa potevamo andare avanti molto molto meglio. Quindi non dobbiamo pensare adesso che siamo diventati il 40° paese al mondo. No, mai fatti. Senti, ho la squalifica di Suarez, ho la decisione sulla squalifica di Suarez. Dario Ricci di Aghiggia che Suarez si becca 9 giornate di squalifica e 4 mesi e 4 mesi senza calcio, Liverpool compreso, quindi non giocherà qua alla fine. 9 di squalifica e 4 mesi senza calcio. 4 mesi senza calcio direi che fanno il paio con tutti, fanno il paio con le altre 8, le altre 10, 12 che sarà preso. Direi che è un segnale forte, no, da parte della FIFA, perché insomma altrimenti proprio diventa il far west, diventa un po' ingestibile. Poi anche perché poi tocca rivederla tutta momento per momento alla TV, no, col quarto uomo, il sesto uomo, l'ottavo uomo. Direi che tanta anche roba. Perché la difesa di Suarez, e poi la difesa di Suarez dell'Uruguay in queste 48 ore è stata qualcosa di ridicolo, di improponibile. Lo so, di ridicolo, di improponibile, però cioè, io da un certo punto di vista li ammiro, perché non, è il loro giocatore più rappresentativo, non lo buttano a mare, se lo tengono così com'è con un miliardo di difetti, con questi viziacci. Però per 4 mesi senza calcio anche il Liverpool paga tanto, Paga tanto. Ma invece scusami, l'arbitro, il signor Moreno, mesi senza calcio? perché poi alla fine dai, adesso io trovo un grande segnale di maturità, veramente un grande segnale di maturità il fatto che ci sia parlato pochissimo dell'arbitraggio dell'altro giorno. Lo trovo veramente in tante cose che non vanno, diciamo, nella cultura calcistica del nostro paese, un segno invece di intelligenza, perché non ci siamo attaccati a degli episodi pure clamorosi che ci sono stati e ci siamo fatti il processo. Detto questo, però, signori miei, con un altro arbitraggio, una partita del genere, stavamo 11 contro 10 noi, la portavamo a casa, e adesso stavamo qui io e Ricci a dirvi: oggi parla Barzagli. Oggi parla Barzagli, certo. Ragazzi, devo chiudere perché tempo scaduto, torniamo domani naturalmente dalle 2 alle 4 con tutti i convocati, ma prima di chiudere, migliore in campo. Pier Michele, 800240024, il numero verde. Se non sai le cose, stai zitto, capra, capra, capra, parli perché hai la lingua, non hai un cervello. Grazie. Questo spero è un messaggio. Spero che non sia per me. No, per me. Che no, sì, figuri. Ho capito. Senta, io volevo dire una cosa che in parte avete già detto, ma vorrei chiarirla meglio. Sì. Trovo Balotelli un ingiusto, che parla di Balotelli capro espiatorio, ma ingiusto motivo che continuiamo a non dire che Balotelli non è un fenomeno, punto. Uh-huh. Cioè, Balotelli è costruito come un fenomeno, ha scritto un pezzo meraviglioso Massimo Gramellini qualche giorno fa, sì, sulla stampa. Sì, sì. Lo dipingono così, lo dipingono. Non è un fenomeno, per Michele. No, ma certo, sì. Certo, allora, il fenomeno è quello che ha fatto 4 gol in 3 partite con l'Argentina, ha 27 anni però, perché è la prima volta che lo fa il fenomeno sul serio anche Messi. Sì, appunto. Allora, la maglietta di tutti i convocati assegnata, grazie a Franco Piantini, autore di questo programma, Claudio Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Convocati.